Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, un esordiente da tenere d'occhio. Francesco Formaggi ci racconta il suo romanzo Il Casale. La signora del racconto, alla canadese Alice Munro, il Nobel per la letteratura. Domani sul Domenicale del Sole, una proposta per salvare il liceo classico. Che ho letto negli ultimi tempi, questo è sicuramente quello che mi ha colpito di più. Si chiama Francesco Formaggi, ha scritto il romanzo Il Casale, pubblicato da Neri Pozza nella collana Bloom. Mi ha colpito particolarmente perché è un romanzo che parte con una sottile ironia e poi finisce per diventare un romanzo nero. È un romanzo decisamente originale. Francesco, il protagonista di questo romanzo, si chiama come te, Francesco, ed è un ragazzo che per una settimana circa passa del tempo dell'estate insieme alla sua fidanzata nel casale degli zii della sua fidanzata, da qui il titolo Il Casale. E sembra una storia, come dire, normale, regolare. In realtà è piena di sfaccettature. Le prime pagine mi sono piaciute moltissimo. Se io fossi un editor e avessi letto così di botto le prime 40 pagine, avrei detto: questo libro lo pubblico. Quanto è stato cambiato di queste prime 40 pagine? Le prime pagine niente. In realtà. Quindi sono proprio farina del tuo sacco, sì, da esordiente. Sì. L'ho cambiato io molte volte prima di proporlo, quello sì, perché per arrivarci lì, anche un po' ad asciugarle, quelle pagine ci ho messo un po'. Prima erano molto più lunghe, sì. Molto più complesse e complicate. Quindi beh, come si fa sempre all'inizio, si scrive molto, poi il lavoro è di pulitura e di togliere più che di aggiungere. Sì, però l'idea è rimasta quella fin dall'inizio. E l'idea è appunto è questo ragazzo, Francesco, le prime immagini sono veramente molto belle perché è in macchina con la sua fidanzata Giulia e viene improvvisamente colpito dalla forma insolita dell'alluce della sua fidanzata. Da qui tutta una disquisizione su quest'alluce che poi seguirà nel corso di tutto il racconto. Questo particolare mi è piaciuto molto, ma perché hai deciso di partire proprio da questo particolare? È stato un caso in realtà, perché quel fatto poi è successo realmente, mi è successo realmente. Stavo in macchina con la mia ex fidanzata e io ho visto i suoi piedi allungati sul cruscotto e ho pensato semplicemente che fossero brutti. Non me ne ero mai accorto in realtà, oddio, non ci avevo fatto molto caso. E poi da lì, questa bruttezza mi si è amplificata romanzescamente, e da lì un po' come ha fatto Pirandello, no? Con il naso di uno nessuno e 100.000. E da lì poi ho detto: questa è un'ottima idea da cui partire per sviluppare tutta una serie di anomalie dentro un romanzo di questo genere. Perché è un romanzo pieno di anomalie, tu dissemini qua e là dei segnali, si capisce che qualcosa dovrà accadere, forse qualcosa di pericoloso. Ma come hai costruito la voce del narrante? Progressivamente, nel senso che poi all'inizio volevo molto che fosse ironica, questa ironia un po' da disadattato più che altro, e in realtà poi l'aspetto noir, l'aspetto nero è venuto dopo, come una sorta di esigenza per portare a termine il suo destino, nient'altro. Quindi all'inizio mi sono focalizzato su lui, cerchiamo di capire lui chi è, come vede il mondo, quindi che fa sempre molta attenzione ai dettagli minimi, quasi insignificanti. Anche i dettagli fisici ho notato, sì. Proprio la struttura per esempio ossea delle persone, sì. O proprio dettagli fisici, quasi medici. È un po' un maniaco, lui è un po' ossessionato da queste cose, non lo fa apposta, poraccio, cioè, c'ha quest'occhio. È un po' un occhio, io lo chiamo sempre l'occhio romanzesco, che ha a che fare proprio con le parti quasi più insignificanti da cui poi tira fuori delle storie, delle impressioni che riempiono pagine in realtà. E quindi all'inizio questa ironia, poi la parte noir è venuta dopo veramente come compimento di lui, della sua personalità. Sì, c'è proprio quasi un cambiamento di stile, quasi netto all'improvviso, e passi alla parte nera. Allora abbiamo Francesco in macchina con la fidanzata Giulia, stanno andando in questo casale in Toscana, in Umbria credo, è al confine, non si capisce bene, insomma, però... Può stare sia nel Lazio, sia in Toscana, sia in Umbria. Ah, io me lo sono immaginato fra la Toscana e l'Umbria, chissà perché. E arrivano in questa casa degli zii e qua trovano dei personaggi abbastanza singolari, a partire dalla zia e dallo zio. Chi sono? Esther e Franco. Sono in realtà gli abitanti di questo casale. Gli abitanti di questo casale che poi lì nel libro si nota, ma hanno anche delle bestie, una sorta di agriturismo. In realtà poi questa idea di questo luogo mi è venuta in mente quando lavoravo in un agriturismo per davvero, e quindi lì anche un po' le bestie, gli animali, la necessità di questa campagna mi è venuta in mente da quell'esperienza mia dell'agriturismo. Solo che loro poi in realtà sono dei signori quasi in decadenza, vivono questo casale ma senza viverci in realtà. E ognuno ha una vita sua, poi Franco non interessa quasi di niente, vuole vendere tutto perché è un po' così disilluso. Invece Esther è un po' una doppia personalità. Poi si scopre durante la storia, certo, non possiamo anticipare troppo. E sono questi zii un po' anomali, un po' strambi, che però all'inizio hanno questa patina di formalità, soprattutto nei comportamenti, e che anche pretendono dagli altri. Infatti, per esempio, li sistemano in due stanze separate. Insomma, Giulia e Francesco convivono già da tempo, eppure lui viene messo in una stanzetta singola, dove però inizia ad avere un rapporto quasi epistolare, lascia dei bigliettini, gli vengono lasciati, con una delle domestiche, che anche qui è un personaggio molto interessante. Clara si chiama. E sì, lei lascia i biglietti perché è un po' una mezza poetessa, almeno si sente così, e vuole comunicare con il protagonista, con Francesco, in questo modo. Si lasciano i bigliettini. E questo è stato molto interessante perché mi piaceva non far comparire troppi telefoni la tecnologia. Mi piaceva un po' isolare tutta la storia e quindi usare questi biglietti per comunicare. Francesco, il protagonista, mi sembra ogni tanto, come dire, un pesce fuor d'acqua in questa situazione, ed è bello che lui, la sua voce narrante sia sempre così, con un sorriso sulle labbra. Come vive questo periodo a casa degli zii della fidanzata? Inizialmente è quasi devastato da questa necessità di formalità, quindi il fatto che non può vivere, che non può dormire con la fidanzata, e il fatto che poi loro, per esempio, il primo pranzo che fanno lì sono tutti vestiti molto formali. Impeccabilmente. Lui si trova con una t-shirt di quelle un po' con la faccia di Kafka, e dice: ma perché non alla fidanzata dice: ma perché non me l'hai detto prima di vestirmi bene? E quindi c'è tutta questa patina di compostezza che lui non capisce, non sopporta dentro, cui sta male, e cerca un po' di adeguarsi, però poi in realtà questa necessità di essere naturale lo fa diventare ancora più goffo e più imbranato. Poi ci sono tantissimi personaggi che rientrano, la cugina della fidanzata, il marito, insomma ce ne sono diversi a cui forse è meglio non accennare troppo, perché insomma sveleremmo troppo della storia, il perché e il per come entrano in questa storia. Il titolo, Il casale, chiaramente è un titolo perfetto perché il casale è il centro di tutto, ma l'ho trovato un titolo forse un po' troppo classico, tradizionale per un romanzo così ironico e insolito. È stata quasi una scelta necessaria, nel senso che era il titolo migliore per questo libro qui, proprio perché comunque il casale è il luogo, è il teatro di tutti gli eventi. E difficilmente si poteva trovare un titolo migliore, cioè è stato il titolo migliore. Dopo una serie di titoli scartati abbiamo detto: no, il casale è l'unico possibile in realtà, perché racconta e non racconta, perché ti dice di che parla la storia, ma anche no, è un po' allusivo. È stato il titolo migliore per un libro del genere, proprio perché tutta la storia si svolge lì. È come se fosse l'attore principale, poi in realtà che non si vede mai, ma è sempre presente. È sempre sullo sfondo, e diventa anche lo sfondo della parte nera di questo romanzo, che abbiamo detto avviene verso la fine. Probabilmente quelle storie lì, quello che accade al casale, se il teatro fosse stato un altro posto non sarebbe accaduto, quindi è proprio una sorta di, come dire, catalizzatore di eventi. Il casale è un catalizzatore di eventi che poi veramente fa scaturire tutte le cose che accadono nel libro. C'è uno strano rapporto fra Francesco e la sua fidanzata. All'inizio si parlano, insomma, comunicano in qualche modo, poi queste stanze separate, diversi eventi, lei che rivede un vecchio amico d'infanzia, è come se in realtà non fossero una vera coppia. C'è qualcosa che cambia nell'arco della storia o è proprio il loro modo di comportarsi? Cambia, ma dall'inizio lui, il protagonista Francesco, è, dopo il fatto dell'alluce, lui è proprio, c'ha una repulsione assoluta nei confronti di lei, e quindi proprio non se la fila più, perché dice, e lega anche la sua inettitudine, il suo non stare bene in quel posto a lei, a questo fatto che dice: ma io ho sempre pensato che fossi un'altra, poi in realtà il suo stato d'animo è questo. E invece lei, dal momento in cui arriva al casale, si trasforma, diventa un'altra persona. È come se assumesse i comportamenti della zia e dello zio, o meglio, i comportamenti che lì in quel casale sono di rigore. E quindi c'è proprio questa distanza che per lui inizia proprio dal fatto dell'alluce, e per lei inizia da quando sta dentro quel casale. Quindi lei si trasforma completamente, ma senza nessun motivo, è un'altra persona. E lui dice: ma con chi sono stato io tutto questo tempo? Perché? perché tu ti sei trasformata? Se lo chiede poco, perché poi in realtà non gli interessa, perché poi è catturato da altre cose. Certo, da altri eventi, da altri fatti che però accadono in questo si casale. Però quindi si staccano quasi automaticamente fin dall'inizio. Ho l'impressione che in questo casale tutto è come non sembra. Cioè le cose in realtà poi sono molto diverse da come appaiono, no? I rapporti, le relazioni umane, le relazioni d'amore, le relazioni fra persone, anche le persone stesse in realtà nascondono sempre quasi una doppia vita. Questo è un po' l'istinto che io chiamo istinto romanzesco, è una sorta di nucleo fondamentale del DNA del romanzo in sé, quello di svelare, e non solo di svelare, ma quello di fare luce su il fatto che ognuno non è come sembra, oppure sembra come non è. Quindi c'è questo gioco di questo gioco credersi, proprio. Ma a partire da Cervantes, da Don Chisciotte, questo è proprio, veramente sta nel DNA del romanzo. Far svelare questa, non dico doppiezza, perché poi la doppiezza non è un termine giusto. No, per no, però cosa. Ci sono vari strati della personalità, sì. E nella tua indagine psicologica sei stato, secondo me, molto bravo nel definire i personaggi. Tu fai delle citazioni dotte anche perché sei un collaboratore di Nuovi Argomenti, la rivista letteraria, insomma, più famosa in Italia. Questa collaborazione ti ha aiutato poi ad arrivare alla pubblicazione, visto che moltissimi ci scrivono, ma allora ho un romanzo nel cassetto, non riesco a pubblicarlo, oltre a dire leggete, leggete, leggete, effettivamente pubblicare i racconti su una rivista letteraria può aiutare? È stata la mia prima pubblicazione con Nuovi Argomenti, un racconto sul numero che si chiamava Cover. È stata una sorta di riscrittura di un racconto di Carver. E sì, oltre ad essere veramente la mia prima pubblicazione, quindi molto accolta con una felicità estrema, è stata importante anche perché grazie a riviste del genere molto conosciute, molto importanti, riesci a farti leggere dagli editor, quindi dagli addetti ai lavori. Un editor, grazie a quel racconto, mi ha contattato, però poi io già avevo iniziato il lavoro con la casa editrice, con la Neri Pozza, quindi non è stato possibile, però quelli sono i canali giusti, necessari, cioè riuscire a pubblicare con riviste del genere ti permette di arrivare alla grande editoria poi. E grazie allora a Francesco Formaggi in libreria con Il Casale, pubblicato da Neri Pozza. Ve lo ricordo, un romanzo che mi è piaciuto molto, perché appunto inizia con questa sottile ironia e poi diventa un romanzo veramente nero. Ve lo consiglio, come sempre, mi potete scrivere i vostri pareri a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Ed è un esordiente, ora passiamo a una signora della letteratura internazionale. La canadese Liz Munro ha vinto il Nobel per la letteratura, che è stato annunciato giovedì scorso. Un premio meritatissimo a una scrittrice che è specializzata proprio nei racconti, sono racconti in genere ambientati in provincia, attraverso i quali lei riesce a mettere a fuoco le relazioni umane, le aspirazioni, i sogni dei singoli. La prima raccolta di racconti della Munro, La danza delle ombre felici, risale al 68, ma in Italia è arrivata solo nel 1994. Il suo grande successo, Chi ti credi di essere, sempre una raccolta di racconti anche se sono poi collegati uno con l'altro, è stato ripubblicato l'anno scorso, sì nel 2012, da Einaudi, e sempre Einaudi porterà in libreria nel 2014 l'ultima opera, Dear Life, con il titolo di Uscirne vivi. E forse purtroppo sarà l'ultimo libro della Munro, visto che a giugno, a 82 anni, ha annunciato di non voler più scrivere, un po' come aveva già fatto l'americano Philip Roth. Alla Munro, la Mondadori ha dedicato proprio quest'anno un meridiano, che in sostanza è un volume molto prestigioso, insomma, che si dedica a scrittori importanti e che contiene una cinquantina dei suoi racconti. A curarlo è stata Marisa Caramella, che tra l'altro è stata la persona che di fatto ha fatto conoscere in Italia Liz Munro, perché l'ha fatta arrivare da una piccola casa editrice, l'ha fatta passare poi all'Einaudi, e quindi è una casa editrice decisamente più importante. Allora, Caramella, per spiegare al grande pubblico che magari non conoscesse la Munro, perché magari ha anche dei pregiudizi nei confronti del racconto, secondo lei quali sono le due o tre cose più importanti da conoscere per apprezzare la Munro? Insomma, quali sono i suoi pregi, i pregi dei suoi racconti? Guardi, è una domanda difficilissima, perché fior di critici ci si sono scontrati, molto più bravi di me, molto più famosi. Le cito uno di loro, che è Jonathan Franzen, che è un suo grande ammiratore. E sì, ne ha parlato molto bene, tra l'altro. Ne ha parlato molto bene. E che sostiene il valore del racconto, ovviamente, in questo articolo in cui parla di Munro. Però, arrivato a lei, La cosa migliore, dice, che posso dire a tutti voi è leggete Monroe, lo ripete due volte, perché è davvero difficile individuare le ragioni per cui uno dovrebbe prenderla in mano e leggerla, no? Però non appena la si prende in mano, basta un racconto per capire dove si sta, che tipo di scrittura è, come ci avvince con delle storie che sono tutto sommato abbastanza comuni, soprattutto con dei personaggi comuni, dentro i quali però lei scava e a un punto tale, immagina naturalmente, a un punto tale che improvvisamente diventano interessanti, e poi andando avanti e indietro nel tempo, saltando interi decenni, ci riserva sorprese sul destino dei medesimi personaggi. Quindi è come aspettare la risposta, non dico un giallo perché è un po' ridicolo, ma comunque una risposta finale a una storia che si costruisce piano piano, lentamente, ma sì, e poi a scatti, senza che si capisca bene dove si vuole arrivare. Lei sostiene di non sapere a sua volta dove vuole arrivare molto spesso, perché prende spunto da una cosa magari che le è successa, che è successa a qualcuno vicino a lei, e poi man mano che scrive si trova in mano personaggi inaspettati che fanno cose inaspettate. Me lo dicono tanti scrittori questa cosa, sì, sì, che poi insomma si fanno prendere dai personaggi. Lei diceva che appunto le storie raccontate dalla Monroe sono appunto storie quotidiane, lo dicevamo anche prima, storie ambientate nella provincia. Anche il linguaggio della Monroe è apparentemente molto semplice, accessibile più che semplice. Lei cosa ne pensa? Io penso che, anzi so, avendo scavato nei suoi archivi, che è il frutto di un lavoro di perfezionamento, direi addirittura maniacale. Ho visto le varie stesure di alcuni racconti con i vari cambiamenti apportati per consiglio di editor, insomma soprattutto per suo personale, posso dire addirittura testardaggine. Quando non le torna una parola o due o una frase, quando ha qualche dubbio, quando rileggendo lei si inceppa, ricomincia a dubitare dell'efficacia della sua scrittura e a lavorare, e lavora indefessa anche quando gli editori sarebbero ben contenti di pubblicarli anche un po' prima, come sempre. E invece lei insomma è molto pignola, è forse molto, anche per questo pignola, è molto critica con se stessa, perché viene proprio da questa cultura canadese protestante in cui uno non bisogna mai mettersi in mostra perché è un peccato, sto parlando di cultura protestante, due, non bisogna mai ritenere di avere fatto abbastanza, quindi bisogna sempre fare di più, tendere al meglio, insomma, perfezionarsi, vittima grazie a questa sua educazione che sentimentale, non che è arrivata a essere così così precisa, e quindi ovviamente lei sarà ultra d'accordo con me, un Nobel meritatissimo, come abbiamo ripetuto più volte in questi giorni. Grazie allora a Marisa Caramella, che è la curatrice del Meridiano Mondadori dedicato ad Elise Monroe. Noi ora andiamo un po' di anticipazioni sul domenicale. C'è sempre un gusto particolare a guardare in anteprima quello che ci sarà sui giornali il giorno successivo, e come sempre noi vi diamo qualche spunto su quello che pubblicherà il domenicale, ossia l'inserto culturale del Sole 24 Ore domani in edicola. Allora, storia di copertina: questo teorema salverà il liceo classico. Allora, Armando Massarenti, tu sei il curatore appunto del domenicale, un liceo classico da salvare, come e perché? Beh, che il liceo classico sia in crisi ormai lo sanno tutti, è la nostra gloria nazionale, ma tutti dicono da un bel po' di anni che non è più quello che riesce a formare la classe dirigente come è stato per moltissimo tempo. E allora, tra le varie soluzioni, noi ne proponiamo una particolarmente incisiva e particolarmente originale, è quella di Lucio Russo. Lucio Russo è un intellettuale molto importante in Italia, ha scritto libri fondamentali di storia della scienza. L'ultimo è un libro fenomenale, si chiama L'America dimenticata, dove cerca addirittura di dimostrare che gli antichi già andavano nelle Americhe, in particolare nelle piccole Antille. Un altro grande libro è La rivoluzione dimenticata, e La rivoluzione dimenticata è proprio quella di cui ci parla di nuovo in questo articolo, ed è quella appunto della filosofia antica e della matematica e della geometria antica, che solo grazie alla riscoperta nel tardo Medioevo e nel Rinascimento avrebbe poi dato luce alla grande rivoluzione scientifica moderna. Ora, cosa c'entra questo col liceo classico? Perché Lucio Russo in realtà non è uno storico della scienza, però ha illuminato la storia della scienza grazie alle sue competenze nella lingua greca antica e latina, e quindi ristudiando tutto quanto. Ora, questo teorema, che salve, il titolo è appunto questo teorema salverà il liceo classico, in realtà si tratta degli elementi, tutto il corpus degli elementi di Euclide che noi già studiamo a scuola. Se il liceo classico, e questo esperimento sarà fatto al Torquato Tasso di Roma, potremo fare delle versioni in greco e attraverso di queste rinnovare anche l'insegnamento della matematica, che oggi è troppo astratta, mentre invece se si ritorna qui, se si ritorna al teorema di Euclide, cioè che poi è noto come il teorema di Pitagora, non so, quello dei due quadrati, no, eccetera. Tutti lo sappiamo, ma qui scopriremo delle cose sorprendenti. Intanto che questo testo ci insegna a ragionare correttamente, ad argomentare correttamente, quindi a diventare cittadini migliori di quanto siamo. E poi perché questo modo di insegnare la matematica e la geometria è, diciamo, concorrenziale rispetto al modo astratto con cui la si insegna oggi. Quindi pensateci bene, basterebbe introdurre la possibilità di tradurre i classici, non solo quelli della letteratura ma anche quelli della scienza, all'interno del curriculum del liceo classico e avremo una riforma fatta e finita della nostra migliore scuola. Grazie ad Armando Massarenti, responsabile della Domenicale della Sole 24 Ore. Noi ora veniamo ad un po' di notizie dal mondo dell'editoria. È appena uscito in libreria Adelfiana, un volume veramente corposo che racconta la storia di 50 anni della casa editrice. Ci sono commenti, copertine, foto sui libri più importanti, insomma, di questa casa editrice. Per esempio, fra gli ultimi cito Limonov del francese Manuel Carrère, che è stato veramente un grande successo dell'anno scorso, successo che tra l'altro continua ancora. Un libro veramente molto interessante. E fra l'altro Carrère è uno degli ospiti del festival L'altra metà del libro, che si terrà a Genova il prossimo fine settimana, cioè dal 18 al 20 ottobre. Carrère parlerà sabato pomeriggio sul tema Ricostruire la memoria. Altro festival, I luoghi delle parole a Chivasso, provincia di Torino, da giovedì 17 a lunedì 28 ottobre, quindi insomma quasi 10 giorni di festival in Piemonte. Fra gli scrittori presenti ne citiamo alcuni: Marco Malvaldi, Cristiano Cavina, che è da poco uscito col suo ultimo romanzo, Del resto come Malvaldi, Fabio Geda, Stefano Benni, Fabio Stassi e Diego De Silva. Ed infine è arrivato in libreria il terzo e penultimo volume della serie Le Vendicatrici, scritto da Massimo Carlotto e Marco Videtta. Si tratta di una serie di noir che sono ispirati dalla cronaca, insomma, sono molto realistici, ne avevamo parlato anche tempo fa al Cacciatore di Libri. Le protagoniste sono quattro donne. In questo terzo volume di questa quadrilogia si scoprono i segreti di Sara, che è un po' il personaggio più misterioso, appunto, di questa saga, definiamola così. E vorrei chiudere questa puntata dedicando un omaggio a Elise Munro, l'avete sentito prima, vincitrice del Nobel per la letteratura 2013. Facendovi ascoltare l'incipit di uno dei suoi racconti, Chi ti credi di essere, che ha dato il titolo proprio alla raccolta Chi ti credi di essere, pubblicata in Italia da Einaudi. Sono dei racconti, anche lo dicevamo prima, divisi, separati, ma la protagonista è sempre la stessa, una ragazza, Rose. Attraverso questi diversi racconti riusciamo a ricostruire la sua storia e i suoi problemi, insomma i suoi sogni e le sue aspettative nei confronti della vita. E allora ecco l'incipit di Chi ti credi di essere. C'erano alcune cose di cui Rose e suo fratello Brian potevano parlare tranquillamente, senza correre il rischio di arenarsi in questioni di principio e prese di posizione. E una di queste era Milton Homer. Si ricordavano tutti e due che quando avevano il morbillo e sulla porta di casa era fisso il cartello della quarantena, si parlava di molto tempo prima, quando il loro padre non era ancora morto e Brian non aveva iniziato la scuola. Milton Homer era sceso nella via e si era messo a leggere l'avviso. Lo sentirono arrivare sul ponte perché, come sempre, si lamentava ad alta voce. I suoi spostamenti in paese non erano mai silenziosi, a meno che non avesse la bocca piena di caramelle. altrimenti se la prendeva coi cani, insultava le piante e i pali del telefono, rimuginando su vecchie ingiustizie. «E non sono stato io! Non sono stato io! Non sono stato io!» strillava, menando colpi sulla ringhiera del ponte. Rose e Brian scostarono la trapunta che era stata appesa alla finestra per proteggere i loro occhi dalla luce e scongiurare il pericolo di cecità. «Milton Homer», disse Brian in tono di apprezzamento. Poi Milton Homer vide il cartello sulla porta. Si voltò e salì gli scalini per leggerlo. Sapeva leggere. Andava su e giù per lo stradone e si leggeva tutti i cartelli ad alta voce. Rose e Brian ricordavano l'episodio e concordavano che la porta era quella sul lato della casa dove in seguito Flo fece costruire la veranda a vetri. Prima però c'era solo una piattaforma sghemba di legno ed era su quella che tutti e due ricordavano di aver visto Milton Homer. Se l'avviso della quarantena era lì e non sulla porta anteriore che si apriva sul negozio di Flo, il negozio doveva essere aperto, il che pareva strano. L'unica spiegazione era che Flo fosse riuscita a farla in barba all'ufficio di igiene. Rose non se lo ricordava, ricordava soltanto Milton Homer sulla piattaforma, con il suo testone ciondolante e il pugno alzato, pronto a bussare. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio come sempre per l'ascolto, vi ricordo che potete risentire le puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Mi trovate su Twitter come Ale Teddina, naturalmente siamo anche su Facebook e se volete scrivere il Cacciatore di Libri @radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.